Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata, benvenuti. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario, ma ci abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, che ringrazio già in anticipo. Il sommario. Tendini, se si rovinano sono dolori. Parliamo di prevenzione, riabilitazione e intervento chirurgico. I rischi dei piccoli esploratori quando i bambini mettono tutto in bocca. Zumba, una nuova moda. Tendini, oggi ci occuperemo di loro, di queste robuste strutture fibrose che sono essenziali per il movimento, dato che hanno proprio il compito di trasmettere la forza dai muscoli alle ossa. Hanno quindi un lavoro molto impegnativo, sono sottoposti a sforzi, sollecitati di continuo e non sempre in modo corretto. E poi, come tutte le parti del nostro organismo, sentono il passare degli anni anche loro, si logorano oppure si infiammano, si ammalano, a volte si rompono e vanno riparati. I nostri ospiti di oggi ci insegneranno e ci aiuteranno a prenderci cura dei nostri tendini, a individuare i fattori, anche le condizioni che mettono a rischio la loro salute, e ci spiegheranno in quali casi è necessaria la riabilitazione e quando invece occorre affidarsi al chirurgo. Gli ospiti li ho qua in studio con me, ho il professor Schonhuber, che è responsabile del Centro di Traumatologia dello Sport e Chirurgia Artroscopica del Galeazzi e presidente della Commissione Medica Fisi. Professore, buongiorno. Buongiorno. È tornato a trovarci il professor Gianluca Mellegatti, responsabile del Centro di Riabilitazione Sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e responsabile dello staff medico della Nazionale Italiana di Rugby. Professor Schonhuber, iniziamo dall'ABC. Proviamo a visualizzare questi tendini. Abbiamo detto che sono strutture fibrose, hanno un'anima, direi, no? Così come una, e anche una guaina che li riveste. Se dovessi immaginarli, ma lei mi corregga se sbaglio, mi verrebbero in mente i fili elettrici, più o meno. Il paragone è abbastanza giusto. Ah, meno male. Diciamo che i tendini sono la terminazione finale dei muscoli, sono inseriti alle ossa e trasmettono la forza dei muscoli per far muovere le articolazioni. Sono delle strutture abbastanza robuste, sono fibrotiche, come ha detto lei, e hanno la capacità, sono poco elastiche. Quindi sono robusti ma poco elastici. Sono robusti, poco elastiche, sono anche poco irrorati. La guaina tendinea che riveste come il filo elettrico, come diceva lei, aiuta un po' anche all'irrorazione del sangue per dare più sangue al ricambio delle cellule, in maniera che quando si usurano diventano, non si infiammano, per questo non fanno dolore. E perciò è una struttura abbastanza complessa, nel senso che deve fare un grande lavoro, però non è sopportata da ossigeno, da sangue, per poter poi essere di nuovo rinnovata. Perciò il rinnovamento cellulare delle tendine è molto lento, per questo spesso c'è un'infiammazione dei tendini e spesso è difficile curarli. Allora, professor Mellegatti, con il professor Schonhuber li abbiamo un po' descritti, adesso andiamo a visualizzarli. Partiamo dall'alto, no? Dai tendini della spalla, i tendini della cuffia dei rotatori? Sì, sono dei tendini che sono tristemente noti perché molto spesso possono andare incontro a patologie, in genere patologie da usura, da sovraccarico. Sono dei corti tendini che permettono ai muscoli rotatori di far compiere alla spalla e quindi al braccio e alla mano i movimenti nello spazio. Possono essere interessati da patologie come la sindrome da conflitto, che non è altro che una sorta di compressione da parte di strutture ossee a livello di questi tendini. Poi abbiamo altri tendini a livello dell'arto superiore e dell'arto inferiore, anche questi tendini che sono interessati spesso dalle patologie traumatiche o da sovraccarico. Abbiamo per esempio il tendine del bicipite brachiale nel braccio, abbiamo a livello della gamba il tendine rotuleo e il tendine d'Achille, che sono due tendini, quello famoso, famoso tendine d'Achille, che sono due tendini che sono spesso interessati dalle patologie, come dicevo, da sovraccarico, soprattutto a livello sportivo, come vedremo. Professor Schonhuber, quando il tendine si ammala, si lamenta, si fa sentire. Infatti uno dei sintomi classici è il dolore, ma immagino che abbia delle caratteristiche particolari. Proviamo a descriverlo. Beh, il dolore è certo il segno più caratteristico della tendinopatia. E il dolore è abbastanza caratteristico, nel senso che il paziente, comunque chi ha dolore al tendine, di solito quando è caldo a meno male. Il dolore è proprio caratterizzato dalla mattina quando ti alzi, quando stai seduto per un po' e dopo ti alzi, e questo dolore a livello tendineo, il tendine che è interessato. Questi dolori sono spesso a livello del tendine d'Achille, soprattutto c'è questa sintomatologia. E perciò questo, poi toccando il tendine si sente il dolore, è però la caratteristica, diciamo, più caratteristica si può dire, è proprio il dolore al momento del dopo il riposo, cioè il momento che inizi la deambulazione, inizi il lavoro. Pian pianino il dolore diminuisce un po', poi chiaramente dipende a che livello è l'infiammazione. Certo, ma noi ci faremo descrivere tutti i sintomi dai nostri ascoltatori che sono in linea con noi. Il nostro numero verde è pronto, 824 0024, e i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso cambiamo argomento per parlare dei nostri bambini, di quelli piccoli in particolare, quelli che iniziano a gattonare o accennano i primi passi e si avventurano tra i locali di casa come dei giovani esploratori, portando però alla bocca tutto ciò che trovano lungo il loro cammino. È normale. In questa fase, che gli psicologi chiamano fase orale, la bocca per il bambino è proprio uno strumento di conoscenza. Lui diventa grande, si rende pian piano autonomo, ma si espone ad un alto livello di rischio. Ogni anno sono decine di migliaia i casi di ingestione accidentale di sostanze tossiche per uso domestico: candeggina, sapone, lucido da scarpe, insetticidi, cosmetici e così via. Il problema degli avvelenamenti domestici è sicuramente il più importante quando si parla di sicurezza dei bambini, e di questo parliamo con il nostro ospite, il professor Alessandro Barelli, responsabile del centro antiveleni del Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, in realtà ci vorrebbe una puntata intera per elencare le sostanze potenzialmente pericolose che si trovano nelle nostre case, dalle piante ai farmaci, ai detersivi, agli insetticidi, ai prodotti per il giardino. Ma io direi, diamo subito delle indicazioni chiare per i genitori in ascolto. Nel caso di ingestione accidentale di una sostanza che noi sappiamo o temiamo tossica, che cosa è bene fare? Ecco, penso che questa sia veramente la domanda più importante da porsi in questa situazione, perché purtroppo a volte si prendono delle misure e si compiono delle azioni che sono sbagliate. Alcune credenze popolari, storicamente tramandate, di primo pronto soccorso in caso di ingestione di sostanza tossica non trovano oggi una realtà e un riscontro scientifico. Ad esempio, la somministrazione di latte in caso di ingestione di una sostanza tossica non è sempre indicata e in alcune circostanze può essere addirittura pericolosa e peggiorare la situazione. Quindi noi consigliamo in ogni caso, in tutte le situazioni in cui anche c'è soltanto il sospetto che il bambino sia stato esposto, abbia ingerito, abbia toccato una sostanza tossica, di consultare il Servizio Nazionale dei Centri Antiveleni in Italia. Abbiamo molti centri antiveleni funzionanti H24, per cui sono disponibili in ogni momento a dare informazioni precise e dettagliate, perché dobbiamo ricordare che spesso queste esposizioni non comportano rischi, e quindi anche soltanto il sapere che non bisogna andare in pronto soccorso, che non bisogna fare la lavanda gastrica, non bisogna indurre il vomito, è un'informazione fondamentale. Professor Barelli, quindi meglio non improvvisare, non va bene il latte né procurare il vomito, meglio telefonare al centro antiveleni. Sul nostro sito abbiamo un link in cui potete trovare l'elenco dei centri, però professore, addentriamoci tra i locali di casa. Iniziamo dai farmaci. I farmaci hanno delle chiusure di sicurezza, vanno sempre, lo sappiamo, tenuti lontano dalla portata dei bambini, ma basta una piccola disattenzione. Professore. Esatto, infatti nonostante questi meccanismi di sicurezza che la maggior parte delle confezioni ha, occorre prendere altre precauzioni. Fondamentalmente i farmaci devono essere tenuti fuori, completamente fuori dalla portata dei bambini, ricordandoci che i bambini, come lei sottolineava prima, nella loro fase di esplorazione possono compiere anche delle azioni non prevedibili e apparentemente acrobatiche, quindi è assolutamente importante che questi farmaci siano chiusi in delle scaffali con chiusura di sicurezza, con chiave, e che quindi non siano assolutamente accessibili ai bambini, perché la chiusura di sicurezza dei farmaci non sempre rappresenta una certezza di non esposizione. Quindi questa è una regola fondamentale: i farmaci non devono essere lasciati a portata. Andiamo ai prodotti per la pulizia della casa. Quali sono i detersivi più a rischio? Sappiamo che i detersivi sono tutti rischiosi, ma alcuni in modo particolare, professore. Esattamente, infatti diciamo che non tutti i prodotti per la pulizia hanno una quota di rischio, però alcuni molto di più. Cito esplicitamente i detersivi per lavastoviglie e i detersivi per lavatrice, ma soprattutto quelli per lavastoviglie, incluso il brillantante, che hanno un'azione caustica, cioè bruciano i tessuti con cui vengono a contatto, e quindi la ingestione anche di piccole quantità di questi prodotti può comportare delle gravi lesioni a livello esofageo, a livello gastrico, e richiedere quindi poi un trattamento a volte anche chirurgico importante. Quindi è fondamentale che questi prodotti siano completamente fuori dalla portata dei bambini. Quindi detersivi per lavatrici, detersivi per lavastoviglie. Gli smacchiatori sono un'altra categoria importante con una forte tossicità, ovviamente tutte le sostanze acide, alcaline, basi forti, quindi disgorganti, quindi la varechina stessa è una cosiddetta base forte, cioè una sostanza alcalina che brucia a contatto. Ecco, questi sono i prodotti in genere più pericolosi e che bisogna che assolutamente siano fuori dalla portata dei bambini. Professor Barelli, io la ringrazio, invito i nostri genitori all'ascolto quindi a ricordarsi di chiudere detersivi, farmaci, di tenerli fuori dalla portata dei bambini, e nello stesso tempo di tenere a portata di mano il numero del centro antiveleno più vicino. Abbiamo messo il link sul nostro sito. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a lei, buongiorno. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci dei nostri tendini. Allora, abbiamo capito che sono essenziali per il movimento, dato che sono loro che trasmettono la forza dei muscoli alle ossa. I nostri esperti ci hanno anche accompagnato a conoscerli, ci hanno descritto come si comportano quando non stanno bene. Tutto chiaro? 800 24 00 24. Sentiamo un po' la nostra scheda, che ci aiuta a contestualizzare il nostro eventuale problema, partendo proprio dalla sensazione dolorosa che le persone, quando hanno un problema al tendine, di solito lamentano. Quando il tendine ti fa male, il dolore si fa sentire appena inizi ad usarlo. Poi, lentamente, si attenua, ma quando lo sforzo si fa intenso, il dolore ricompare. Dopo essere stato fermo a lungo o al mattino appena sveglio, quando ti metti in piedi, zoppichi per pochi minuti per il dolore, poi riprendi a camminare con sintomi sopportabili. Se tocchi il tendine che ti fa male, lo senti più grande e meno consistente del solito. Se provi a contrarre il muscolo, la palpitazione diventa ancora più dolorosa. Il tendine è dolente e fa rumore. Scricchiola. Professor Melegatti, vogliamo allora dire che cosa offende o logora i nostri tendini? Un po' l'età. Beh, direi di sì, l'età favorisce il processo degenerativo dei tendini. Dobbiamo dire che esistono eventi patologici traumatici che possono interessare i tendini, ma questi sono i più rari. È molto più frequente la patologia cosiddetta da sovraccarico, cioè da microtraumatismi ripetuti. Bisogna considerare che la teoria più accreditata è proprio questa, vale a dire: i carichi applicati nello sport o nel lavoro sono talmente ravvicinati e talvolta che non danno la possibilità al tendine di recuperare. E quindi questo tendine rimane sollecitato costantemente e non è più in grado di rimarginare le piccole ferite che si creano quando un tendine viene sollecitato. Quindi, insomma, troppo stress anche per i nostri tendini. Troppo stress, certamente. Se fossero delle persone, un po' come la vita. Considerando poi che, come ha detto il professor Schoenhuber, sono delle strutture che sono poco irrorate, ecco che allora la teoria del sovraccarico è ben evidenziata da questo. Professor Schoenhuber, quindi più a rischio sono gli sportivi, mi viene in mente? Oppure ci sono delle persone che hanno delle, anatomicamente sono, magari hanno delle imperfezioni che li portano a stimolare eccessivamente i loro tendini? Mi viene in mente ad esempio le persone con i piedi piatti. Ecco. Sì, perfetto. Il problema è che le persone con i piedi piatti effettivamente se fanno attività sportiva sicuramente sono più esposti a delle patologie tendine, eccetera. Mm. Le persone con i piedi piatti però non fanno spesso sport, perché già da piccoli non sono bravi a fare sport, e diventano allora un po' intellettuali, si autoelimina. La natura ci pensa. E comunque è questo, uno dei fattori è questo. L'altro spesso è dato anche dalla preparazione all'attività sportiva. Mm. Non è tanto il gesto sportivo che provoca delle tendinopatie, è la preparazione atletica, il gesto male eseguito, ma se un gesto atletico, qualsiasi sport che tu fai, viene eseguito in maniera corretta, è difficile che ti venga una tendinopatia. Perciò cos'è importante negli atleti? Una buona gestione da parte del preparatore atletico, in maniera da non avere ripetuti troppo carichi di lavoro, perché il tendine non si espande, non riesce, il muscolo aumenta, perciò lo stress è maggiore, e eseguire un gesto atletico sempre in maniera corretta e perfetta. Più possibile, star molto attento ai materiali, stare attento alle scarpe, solite cose, insomma. Certo, bisogna farlo. Bisogna stare attenti, perché se posso dire, volta che tu, anche un atleta professionista, hai una tendinopatia, è difficile curare, rischia di perdere delle stagioni, rischia anche di dover smettere a fare attività sportiva. Mm-hmm. Abbiamo già subito le telefonate dei nostri ascoltatori che ci aiutano con le loro domande a entrare meglio nel problema. Abbiamo Massimo, ci chiama da Milano all'824 0024. Massimo, buongiorno. Sì? Massimo, buongiorno. Buongiorno. Lei è uno sportivo? Prego? Io sono un agente di commercio. Sì. Il mio problema è questo: un giorno, sollevando una borsa, ho sentito un clac a una spalla sono andato a fare poi un'ecografia e mi hanno diagnosticato la lesione completa del sovraspinato. Quanto pesava questa borsa? Ma no, la borsa è normale, solamente che io che porto borse sono 40 anni. Senta, il professor Schoenhuber dice lui che è scarso, non era preparato non l'ha afferrata la borsa nel modo giusto. Non lo so. Non si sa. Morale della favola che vado dal chirurgo, il quale mi dice è da operare. Io le chiedo, ma senta, se io devo operare, che garanzie ho che l'operazione riesca? E questo era, io avevo chiesto di essere operato perché mi faceva male. Sì. Passando del tempo il dolore mi è passato e dato che non mi dava delle garanzie finché non mi avesse operato, io ho rinunciato all'operazione. Anch'io avrei fatto così, Massimo, ma io chiederei al professor Schoenhuber. Questo chirurgo non dà garanzie, giustamente Massimo. Vabbè, dice, se mi devo andare sotto i ferri e poi sono come prima, l'unica sicurezza che abbiamo è la morte, no? Il resto, però normalmente diciamo che una sutura del tendine si fa normalmente in artroscopia, dà dei risultati ottimi e il paziente torna all'attività di prima assolutamente. Il problema è che il paziente poi col tempo assolutamente passa il dolore, lui riesce a fare la sua vita normale. Adesso non so quanti anni ha, non mi ricordo se l'ha detto. Massimo, non so se è ancora in linea con noi. Massimo? Io ho 63 anni. Beh. Però il problema mio, la cosa che mi spaventava, era il post-operatorio, perché parlando con delle persone che hanno subito questo intervento, fisioterapia è una cosa piuttosto lunga. Capisce? Perché dico, se faccio una cosa lunga e poi mi si spacca ancora, tanto che il dolore era scomparso, la mobilità era praticamente come prima, io ho detto, io non mi faccio operare. Ma ha fatto bene, visto l'età e visto che sta bene, ha fatto bene non farsi operare. Secondo me, anch'io le avrei dato questa indicazione, poi sentiamo anche il dottor Professor Melegatti. Ma come sta adesso? Dice che non ha più male. Io sto bene, ad esempio faccio un po' delle cose che non dovrei fare, perché per esempio mi sono messo a spalare della neve e dopo un po' mi ha fatto male. E di notte ha dolore? No, di notte dormo. Beh, allora direi che la situazione è stabilizzata, tutto sommato a questo punto ha fatto bene. Il buon senso l'ha guidata. È successo a maggio, sono 2 anni. Deve stare attento alla sua spalla però. A proposito del post-operatorio, professor Schoenhuber, professor Melegatti, è così lungo? Beh, è abbastanza difficile? Lungo, perché io suturo il tendine, devo aspettare che venga che si cicatrizzi, perciò devo tenerlo immobile. Dipende dal tipo di lesione, ma comunque non meno di 3 settimane. Poi comincia una rieducazione abbastanza lunga, puoi farla in acqua, puoi farla all'acqua, comunque poi il programma lo fa il dottor Melegatti, comunque almeno 4 mesi, 3-4 mesi. Andiamo a Bergamo, ci chiama Renato, vediamo come stanno i suoi tendini. Renato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, più o meno il mio problema è quello che aveva quel signore di prima. Sì, anche lei alla spalla, ma portate tutte le borse. Esatto. A me quando deve portare, io quando devo portare una borsa a casa mia scappano tutti. E invece vede, perché fanno bene. Renato, quindi anche lei ha il problema alla spalla? Dunque, io sono stato visto da due ortopedici dello stesso ospedale, ma sono due equipe diverse. Mm. Uno mi dice che devo operare. Sì. E l'altro mi dice che non è da operare perché non mi garantiscono niente. Mm. E poi c'è una, come si dice, un totale circa 6 mesi tra operazione e riabilitazione. Sì, questo l'abbiamo detto, che la riabilitazione è lunga. Allora, Renato, dal suo spunto... Assolutamente, se riesco a non farmi operare. Mm. Allora, Renato, io chiederei al professor Melegatti, che come fa riabilitazione, quindi sarebbe del partito del aspetta, cerchiamo di recuperare, e poi chiederei invece le indicazioni per l'intervento al professor Schoenhuber. Possiamo fare una breve scheda in modo che poi andiamo ai mercati? Non è semplice, non c'è una verità assoluta. Mm. La regola è che più giovane è il paziente, più attivo è il paziente e più la lesione è completa, più ci vuole la chirurgia. Quindi io non sono naturalmente contrario alla chirurgia quando ci sono le indicazioni. Quando il paziente è giovane, è attivo e vuole recuperare la sua spalla al 100%, la chirurgia è indicata. La maggior parte però di queste persone che hanno patologia alla cuffia dei rotatori non sono giovani, non sono sportivi, e quindi è anche lecito pensare a un approccio riabilitativo e vedere come va, però senza perdere troppo tempo, perché se si perde troppo tempo poi alla lunga il tendine si degenera ed è più difficile per il chirurgo riprenderlo. Professor Schoenhuber, ci sono anche però delle situazioni, dei casi in cui l'intervento si può evitare. Si parla infatti di fattori di crescita, giusto? Prima di finire sotto le mani del chirurgo. Sì, però i fattori di crescita si usano più nei tendini d'Achille, nei tendini rotulei, non tanto è stato fatto anche nelle tendine della spalla. Quindi, la chirurgia, però. Quindi, da questo diciamo che ogni tendine ha un po' la sua cura. È corretto. Sì. Torniamo ad occuparci dei nostri tendini, 800-24-0024. Se avete dolore, se state già facendo una terapia, riabilitazione, se vi è stato proposto un intervento, se già l'avete fatto, chiamateci o scriveteci al 349-238-6666. Abbiamo Romolo, Maria Adele e Clara che ci aspettano. Non vorrei farli attendere molto, ma abbiamo in sospeso la cura giusta per ogni tendine. Allora, professor Melegatti, partiamo dall'alto. Tendine della cuffia dei rotatori. Abbiamo parlato della tendinite della cuffia dei rotatori e quindi dobbiamo dire che il trattamento di elezione è un trattamento fisioterapico che comporta il lavoro terapeutico da parte del terapista della riabilitazione, quindi il lavoro manuale per recuperare il movimento che molto spesso in questi pazienti viene diminuito. Certo. E il controllo del dolore, dell'infiammazione attraverso tecniche di massaggio e di rinforzo muscolare, e le terapie fisiche che possono essere svariate. Proviamo a dirle. Per esempio terapie fisiche che utilizzano la corrente, quindi le TENS, che sono delle scariche di corrente superficiale che tolgono il dolore, le onde d'urto che vengono utilizzate in questa patologia soprattutto quando la tendinite è anche calcifica, cioè quando c'è la presenza di piccole calcificazioni all'interno di questo tendine. Le onde d'urto non sono altro che ultrasuoni ad altissima energia che vengono erogate, vengono puntate, vengono fatte arrivare esattamente sul tendine come infiammato. Come una freccia, esattamente. Se fanno male, di chi è la colpa? Della nostra sensibilità, dell'operatore, della macchina? Perché molte persone fanno le onde d'urto e mi scrivono un male terribile. Allora, io non le ho mai fatte, lei penso che lei le prescrive, non certo. So se le ha mai fatte, sì. Ma che cosa le dicono? Allora, in effetti non è un trattamento piacevole, però non può e non deve essere un trattamento intollerabile. Non è possibile sentire il paziente che dice che ha sofferto un dolore insopportabile. Qui c'è qualcosa che non va. Dipende dall'operatore, dipende dall'attrezzatura che si utilizza e dipende veramente dalla gestione della patologia, dalla gestione tecnica della patologia. Scendiamo rapidamente. Il tendine, dei tendine del rotuleo e poi il tendine d'Achille. Ce ne sono naturalmente altri, certo. Ma tanto questi sono quelli che richiedono maggiori trattamenti. Maggiore hanno maggiore attenzione. Il tendine rotuleo è classicamente noto a noi traumatologi sportivi, perché in genere si infiamma negli atleti che effettuano sport, per esempio di salto. Non a caso è la tendinopatia del rotuleo, viene definita jumper's knee, ginocchio del saltatore. Quindi atleti che fanno basket, pallavolo, o anche atleti che fanno atletica leggera, corsa, lunghe distanze, sci, rugby, atleti di potenza. È la infiammazione soprattutto all'inserzione di questo tendine a livello della parte più inferiore della rotula. È una tendinopatia molto fastidiosa e molto difficile da curare e deve essere aggredita per tempo, quindi la diagnosi deve essere precoce e immediata e il trattamento adeguato. Trattamento che prevede presidi come fisioterapia manuale, rinforzo muscolare, soprattutto rinforzo eccentrico, vale a dire questa è una caratteristica costante per tutti i trattamenti delle tendinopatie. E poi terapie fisiche come onde d'urto oppure ancora ultrasuoni e altre. Prima di andare al tendine d'Achille, volevo chiedere al professor Sean Huber quali sono i tendini che si operano di più? Beh, il tendine d'Achille e il tendine rotuleo, beh, soprattutto la spalla si operano di più. Quindi, devo dire, da un punto di vista chirurgico, sì, in assoluto la spalla, perché è quella che dà più risultati, perché quelli si rompono e quelli bisogna suturarli. Sono i tendini che si rompono più facilmente, sia nei giovani sia nelle persone anziane, sia per degenerazione che per traumatismo. Romolo da Verona, buongiorno Romolo. Buongiorno, buongiorno. Qual è il suo tallone d'Achille, Romolo? Il mio tallone d'Achille, mi hanno riscontrato una calcificazione al tendine di Achille. Ho fatto diverse terapie, tra le quali ultima le onde d'urto. Sì. Ha avuto male o malino? Malino, sopportabile. Sì. Io sono uno sportivo, mi piace sciare, vado a fare fondo ogni sabato e domenica, scio benissimo, però quando smetto ho dei dolori tremendi al tendine. Chiedevo ai professori, è consigliabile operare? Professor Sean Huber, Romolo è tutto suo. A questo punto sì, ha già provato tutto, ha questa calcificazione, perciò sicuramente vale la pena fare un intervento chirurgico, possibilmente rimuovendo la calcificazione, creando più spazio per il tendine. Di solito la calcificazione a livello dell'inserzione distale del calcagno, perciò si crea più spazio, c'è una borsa serosa e normalmente poi il dolore sparisce. Ci vuole un po' di pazienza dopo l'intervento, sempre 2-3 mesi, ma consiglio un intervento chirurgico. Lei lo consiglia, professor Sean Huber, ma se uno si fa una riabilitazione corretta, come ci diceva un po' il professor Melegatti, poi questo tendine torna nuovo, cioè può fare caso Romolo, può fare tutte le cose di prima? Ma lui ha un fattore scatenante, lui ha questa calcificazione, adesso non so bene dove è situata la calcificazione, ma se la calcificazione striscia, per farla breve, sul tendine, questo tendine continua a infiammarsi. Professor Melegatti? In effetti questa è una spina irritativa, questa calcificazione, che è difficile se non impossibile togliere con le onde d'urto, perché bisogna anche fare attenzione quando si parla di onde d'urto e calcificazione. Non tutte le calcificazioni possono essere aggredite dalle onde d'urto. La calcificazione caratteristica della tendinite dell'Achilleo inserzionale è difficile toglierla con le onde d'urto, e quindi se il paziente ha effettivamente seguito un buon programma di rieducazione fatto di lavoro di allungamento, di rinforzo eccentrico, di onde d'urto, di propriocettività, e non ha avuto risultati, a questo punto è chiaro che, dal momento che è uno sportivo, è una persona attiva, è chiaro che il trattamento chirurgico è consigliato. Andiamo a Viterbo, ci aspetta Maria Adele, buongiorno signora. Buongiorno. Maria Adele, noi siamo qua per lei, ci racconti. Sì. Allora, io ho un problema all'indice della mano destra, volevo chiedere se era un problema di tendine o qualcos'altro. Perché? Che cosa succede all'indice della mano destra? Quando io mi sveglio il mattino, se mi sveglio con la mano chiusa, non riesco ad aprire questo dito, lo devo fare con molta ginnastica e mi fa dolore. Se mi sveglio con la mano aperta, non riesco a chiuderlo, e sempre con dolore devo chiudere. Volevo chiedere che cosa poteva essere. Grazie Maria Adele, una bella domanda, perché rischiavamo di trascorrere trascurare le mani, e invece certo, ci saremmo arrivati forse. Rischiavamo di trascurare quei piccoli tendini molto lunghi che sono ricoperti da una guaina, che sono i tendini delle dita. Allora, da quel che mi sembra di capire, la signora soffre di una patologia degenerativa a carico del tendine del flessore, che viene strozzato dalla sua guaina sinoviale e crea proprio questa difficoltà. Probabilmente ha anche una sorta di scatto la signora Maria Adele quando muove il dito, e allora questo è proprio segno di una tenosinovite infiammatoria. Quindi vale a dire, il tendine si è infiammato. Il tendine si è infiammato e non riesce a scorrere bene all'interno della sua guaina. Cosa si fa? Ci sono delle terapie fisiche da fare. Ma serve muoverlo? O più lo muoviamo e più si infiamma? È importante muoverlo se non c'è dolore. Quindi direi, dopo un primo approccio di antinfiammatori, anche locali, di ghiaccio e di terapie fisiche, come per esempio potrebbero essere degli ultrasuoni a immersione, si può pensare di mobilizzarlo. In genere si riesce a risolvere il problema, se non si può si opera. Il professor Schoenhuber, essendo chirurgo, dice alla fine si opera. Ma perché è un intervento semplice, è un intervento risolutivo al 100%, si fa in day hospital, e così è un Maria dito Adele a scatto, può... si apre la guaina, Maria Adele starà benissimo. Fantastico. Eccoci di nuovo insieme. Io direi che è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura e poi torniamo a parlare dei nostri tendini. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro che si intitola Ginnastica Dolce, sempre in forma senza fatica. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a mandare una email al nostro indirizzo di posta elettronica essere benessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Professor Melegatti, io sospetto, mi ho male al tendine, lo sento un pochino più in rilievo, meno consistente. Insomma, il medico, per capire esattamente come sta il mio tendine, quali esami mi prescrive? Beh, la prima cosa è un buon esame clinico. E poi esistono degli esami come l'ecografia, che è un esame semplice, poco costoso, che ci fa vedere bene la struttura del tendine. Si può passare a un secondo livello con una risonanza magnetica quando il dubbio diagnostico è un pochettino più impegnativo, e una radiografia quando abbiamo il sospetto di avere a che fare magari con una calcificazione. Parliamo di questi fattori di crescita, no? Che riscuotono molto interesse, ci sono molti punti di domanda, almeno tra noi che non siamo addetti ai lavori. Quando servono, in quali casi vanno bene per tutti i tendini, per tutti i tendini sofferenti, per quelli un po' sfilacciati, infiammati, è una strada per evitare l'intervento? Professor Schoenhuber. No, una strada probabilmente per evitare l'intervento no, però abbiamo visto che abbiamo fatto questa sperimentazione su dei pazienti che erano in lista operatoria praticamente, con dei pazienti sportivi giovani. Abbiamo provato a usare i fattori di crescita in 28 persone e abbiamo visto che il 70% è migliorato, non ha più subito nessun intervento chirurgico, ha potuto tornare all'attività sportiva di prima. I fattori di crescita è una procedura questo, abbastanza complessa, costosa. E per esempio non viene passata dal Servizio Nazionale Sanitario, e praticamente sono i fattori di crescita vengono prodotti dal proprio sangue. Il sangue viene centrifugato, viene poi estratto il gel piastrinico. Questo gel piastrinico, sappiamo che ci sono dei fattori di crescita, e vengono iniettati tutto in una seduta nel tendine doloroso. Di solito il rotuleo e l'achilleo che danno più risultati. Rotuleo e il tendine d'Achille, quello del ginocchio o quello del tendine d'Achille? E questo nel mondo si fa, ripeto, è costoso abbastanza. Il mondo scientifico è concorde nell'utilizzo, oppure capita spesso ci sono le due squadre? No, questa qui è una cosa che viene accettata nel mondo scientifico, assolutamente non è miracoloso, però prima di fare un intervento chirurgico Può essere una strada. Professor Melegatti, ho diversi SMS che mi chiedono se ci sono degli integratori che in qualche modo danno vigore al tendine, lo rendono più robusto o magari un pochino più elastico. Esistono? Ci sono molti integratori, vengono commercializzati e spinti su internet e dicono che facciano miracoli. Io vorrei capire che cosa dicono invece gli studi scientifici a riguardo. Certo. Perché... Ma dunque, su internet e nel mondo pseudoscientifico ci sono tantissimi prodotti che però non hanno non sono stati validati dal punto di vista scientifico. Quindi direi che non esistono prodotti miracolosi. L'unica cosa che funziona bene nel mantenere sani i tendini è l'attività motoria, l'attività fisica ben bilanciata, fatta bene, che quindi prevede il rinforzo muscolare dei muscoli a cui sono legati i tendini in questione e quindi è la elasticità di tutta l'unità funzionale muscolo-tendine. Quindi non ci sono altre strade. Direi che questa è l'indicazione. Andiamo a Bari, nella provincia di Bari. Ci aspetta Clara, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, mi dica. Rapida la domanda perché siamo quasi in chiusura. Ho un ragazzo di 14 anni che accusa forti dolori ai tendini che sono subito dopo la rotula e ciò succede quando riprende l'attività fisica anche dopo brevi sospensioni, anche quando non va da 4-5 giorni. Quando riprende la sua attività fisica in palestra riaccusa i dolori in questa zona qui, molto forti. E lei cosa mi chiedevo cosa deve fare? Grazie. Esatto, grazie Clara. Professor Schonhuber, ragazzo giovane, sportivo. Sì. Probabilmente, probabilmente non è tanto il tendine, ma l'inserzione del tendine dove c'è un nucleo di accrescimento osseo. A 14 anni il bambino o il ragazzo cresce ancora, si chiama Oskutschlatter, è la patologia più frequente a quell'età lì, perciò basta credere, andare da uno specialista, è una diagnosi abbastanza semplice, perché è difficile che un ragazzo di 14 anni abbia una patologia già ai tendine. Perciò probabilmente questo fattore di crescita e poi va via da solo. Ma l'attività fisica conviene comunque. L'attività fisica la può fare un po' con calma, se gli fa male smette, mette un po' di ghiaccio e quando sta di nuovo bene riduce un po' l'attività e man mano cresce e poi man mano che poco cresce poco va via diventa da solo, grande credo. Anche lui. Sì. Andiamo da una Nicoletta che sta a Pisa, buongiorno. Oh, buongiorno, innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione. Senta, volevo fare una domanda al professor Melegatti. Sì. Mio figlio ha 17 anni e fa pallavolo, adesso è a casa perché il dottor Perica ha diagnosticato uno una tendinite, uno una tendinopatia, non so la diversità così fili che ci può essere fra questi due. Sì, lui ha male? Lui ha molto male e ha fatto dunque 20 sedute di tense e ora sta facendo le onde tutte, ma la terza, domani faccio la terza. Il scusi, dove ha? Io non ho capito esattamente dove ha male, ha una tendinopatia al ginocchio. Ha già fatto le sedute di tense, 17 anni, 20. Adesso stiamo facendo le onde d'urto, siamo alla terza. Però ha sempre dolore. L'ortopedico dice che se queste urte non funzionano, di fare delle infiltrazioni di acido ialuronico. Va bene, grazie Nicoletta. Professor Melegatti, riusciamo a rispondere perché noi poi andiamo di zumba? Certo sì, bisogna inquadrare bene il problema, può diventare un problema abbastanza serio. Il ragazzo è giovane e fa un'attività di salto, se ho capito, mi sembra che si tratti di una jumper's knee, di un ginocchio del saltatore, quindi una patologia inserzionale del rotuleo. Bisogna rivedere un po' tutto, bisogna rivalutare bene la situazione del ragazzo, se ci sono dei dismorfismi, la lunghezza degli arti, la flessibilità della muscolatura, i piedi, l'appoggio, se è un piede piatto, pronato. Bisogna rivederlo bene dal punto di vista cinesiologico e ripartire da zero e ripartire con un programma molto molto graduale di recupero funzionale della forza del quadricipite eccentrica e magari ancora onde d'urto. E magari ancora onde d'urto. Sì, perché bisogna sempre inquadrare bene perché è venuta la tendinopatia. Sì, poi quando si brancola nel buio forse conviene fermarsi, girare pagina e andare a cercare una nuova direzione. In questa tendinite si rischia veramente di fare perdere un sacco di tempo all'atleta. Professor Schonhuber, professor Melegatti, grazie. Abbiamo scoperto i tendini, le tecniche. Grazie per essere state con noi. Grazie. Ci torneremo. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Ed ora chiudiamo a ritmo di danza. Parliamo di zumba, l'aerobica a ritmo di musica latinoamericana. La nostra Deborah Rosciani ne è un'accanita sostenitrice. Dice che fa miracoli, tonifica i muscoli ma anche l'umore, e questo non è un dettaglio da poco. Allora vediamo se la zumba può fare al caso nostro. Lo chiediamo a Dorman Racines, che è personal trainer ed è in linea con noi. Benvenuto. Buongiorno. Allora, diciamo subito che è una disciplina molto divertente, perché sicuramente la musica aiuta, è così? È così, è una lezione d'aerobica mixata con la danza, e però la base musicale latinoamericana prevalentemente, quindi questo la fa una festa. A chi la consiglierebbe? A chi vuole perdere peso, a chi vuole tonificarsi? Quali sono i vantaggi della zumba? Certo, il vantaggio della zumba è l'altissimo consumo calorico, quindi dimagrisci. Ha una altissima componente di tonificazione, perché gli esercizi sono mirati per la tonificazione anche. E poi la consiglierei realmente a tutti, uomini, donne. Può essere anche preparatoria per alcuni tipi di attività sportiva? Ad esempio per la corsa o per chi va in bicicletta? Decisamente sì, la zumba è un programma cardiovascolare molto intenso che ovviamente ci allena, quindi certo che ci prepara per correre, ci prepara per andare in bici, ci prepara per sciare. E nello stesso tempo ci scioglie, quindi ci prepara anche per andare a ballare. Sì. Due piccioni con una fava, con che cadenza settimanale per avere risultati? Io consiglierei di farlo almeno due volte a settimana, perché così riesci a fare un allenamento continuativo e soprattutto a dare un progresso al tuo lavoro. Ci vuole un'attrezzatura particolare o basta una tuta e un paio di scarpe da ginnastica? No, assolutamente no, questa è una delle cose positive della zumba, non ci vuole niente altro che la voglia di fare e la voglia di divertirti. Allora ringrazio Dorman Racines, che è stato con noi. A tempo non abbiamo sentito la musica latinoamericana, ma ce l'abbiamo un po' tutti nelle orecchie. Grazie a Dorman, ci sentiremo, e buona giornata a voi che avete ascoltato Essere Benessere. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11:00.